Radio Onda Rossa ha dei costi di gestione di 30.000 euro annui e i consueti strumenti di autofinanziamento non bastano più. Per questo ha avviato una campagna di abbonamenti, il cui obiettivo minimo è di 1.000 abbonamenti, che significa per ognuno di essi 2,50 € al mese. Tutte le istruzioni le puoi trovare sull'home page del sito internet ondarossa.info. Questa è tutta scena teatro su Radio Onda Rossa. Il martedì alle ore 14. Trasmissione settimanale dedicata al teatro e agli eventi culturali. I podcast di spettacoli e interviste sono disponibili sul sito internet ondarossa.info alla voce trasmissioni. L'indirizzo di posta elettronica è visionari@ondarossa.info. Lo spettacolo Domani ti farò bruciare, invettiva da I fratelli Karamazov di Fyodor Dostoevsky, con Silvio Castiglioni, drammaturgia Andrea Nanni, produzione Celeste Rosa e I sacchi di sabbia, regia Giovanni Guerrieri, suoni Gianmaria Gamberini. C'era un tale, un uomo cattivo, dicono, che non credeva in nulla. Il suo angelo si affannava a cercare qualcosa che lo salvasse, ma temeva che appena morto i demoni lo scaraventassero in un lago di fuoco. Ma l'uomo era convinto che Dio non esistesse e niente riuscì a fargli cambiare idea. Alla fine l'angelo pianse e se ne andò. Allora l'uomo cattivo morì, era certo di finire nel vuoto, invece eccolo nell'aldilà. Sei tu? Sei tu. Zitto. Non rispondere. Che potresti dire? So cosa diresti. Non hai il diritto di parlare. Cosa potresti aggiungere? Che sei venuto a fare? Sei d'intralcio, lo sai? Stanotte l'aria sa di lauro e di limone. Ma domani... lo sai che succederà domani? Domani io ti condannerò e ti farò bruciare. E quelli che oggi ti baciavano i piedi, domani, a un mio cenno, soffieranno sul fuoco. Lo sai questo? Già, forse lo sai. Tu hai lasciato tutto nelle nostre mani, quindi potevi fare a meno di tornare. Sei d'intralcio. Credi di avere il diritto di fare rivelazioni? Non ce l'hai. Non c'è niente da aggiungere. Qualunque rivelazione toglierebbe agli uomini la libertà, quella che ti è sempre stata tanto a cuore. Non eri tu che dicevi: voglio rendervi liberi? Li hai visti? Ci è costato parecchio, ma ora è fatta, grazie a te. Per tutto questo tempo non abbiamo fatto altro. Ora sono tutti convinti di essere liberi. Ci hanno consegnato la loro libertà, l'hanno deposta ai nostri piedi. Ma questo l'abbiamo fatto noi. Non ci credi? Mi guardi con dolcezza? Non mi degni neanche del tuo risentimento. Chi si rivolta non può essere libero. Tu lo sapevi, ma non hai voluto crederci. Questa è l'unica via per essere liberi. Tu ci hai dato il diritto di legare e di sciogliere. E ora cosa vorresti fare? Togliercelo? Sei d'intralcio. Lui te l'aveva detto nel deserto. Quello sì, era un miracolo. Nessuno, politico, ecclesiastico, filosofo, poeta, nessuno avrebbe saputo fare di meglio. Nessuno è più riuscito a escogitare un tale miracolo di logica. Non vorrei dirmi che la vita va amata al di là della logica? In quel quelle domande c'è tutto, tutto quello con cui abbiamo a che fare. Forse allora non era così chiaro, ma ora, dopo tutto questo tempo, dopo che ogni parola si è avverata, dimmelo tu chi era nel giusto, tu o lui? Tu te ne vai per il mondo, mani vuote. Non hai che promesse di libertà, promesse che fanno spavento. Per quelli niente più tremendo della libertà. Ma vedi quelle pietre, trasformali in pane e tutti ti verranno dietro, ordinatamente. E l'unica paura che avranno sarà che tu smetta di dargli del pane. Più o meno suonava così. Ma tu hai detto di no. Non di solo pane vive l'uomo, non di solo pane vive l'uomo. Non lo sapevi che si sarebbe arrivati a dire che il male non esiste? Che ci sono affamati e basta? Prima la fame, poi la virtù. Questo ci sarà scritto sulla bandiera che ti sventoleranno in faccia piantata tra le macerie. Tu potevi evitarlo. Noi dovremmo nasconderci sottoterra per non farci ammazzare. Ma alla fine saranno loro a pregarci. Verranno a cercarci. Per chiederti da mangiare. E allora saremo noi a condurre il gioco. Chi dà da mangiare conduce. E da mangiare lo daremo noi. E gli diremo che lo facciamo in nome tuo. Mentiremo. Mentiremo. Tu gli hai promesso un altro pane. Ma come pensi di reggere il confronto? Magari qualcuno ti starà a sentire, ma tutti gli altri? Non ti stanno a cuore tutti? Oppure i più non sono che materia prima per il regno dei meno? Per noi sono tutti uguali. Più si rivoltano e più diventano obbedienti. Con il pane avresti risposto alla domanda che si fanno tutti. A chi obbedire? Per chi rimane libero non c'è niente di più urgente. Trovare qualcuno a cui piegarsi. Trovare qualcosa di indiscutibile a cui piegarsi. È l'unico pensiero che hanno. Trovare qualcosa a cui tutti quanti possano piegarsi. È sempre stato così. Per questo si massacrano, per questo hanno bisogno di Dio. Sarà sempre così. Tu lo sapevi. Non potevi non saperlo. Eppure hai rifiutato l'unica bandiera a cui avrebbero obbedito tutti. Tutti quanti. Certo, chi riesce a impadronirsi delle coscienze può convincerli anche a buttarlo il pane. Ma qui avevi ragione tu. Vivere non è niente senza un fine. Una fine, una consolazione. Puoi avere tutto il pane che vuoi, è vero? Ma tu che hai fatto? Gli hai dato a Kogobo più libertà. Ti eri dimenticato che la pace, magari la morte, sono meglio di qualunque libertà? Ma come hai fatto a non capire che così avrebbero finito per voltarti le spalle? Che ti si sarebbero atti contro? Non gli hai dato che pensieri e li hai abbandonati a se stessi. Lui ti aveva chiesto altro nel deserto. Miracoli, misteri, sì, ma anche autorità. Non c'è altro per vincere e piegare quelle creature incompiute, per renderle felici. Ma tu hai rifiutato tutto. Ti eri messo in testa di dare il buon esempio. Quando lui ti portò sul pinnacolo del tempio e ti disse: buttati di sotto, così darei prova della tua fede e avrai la prova di essere stato scelto. Tu sei stato ad ascoltare e poi hai rifiutato. Gran gesto il tuo, certo, divino. E quel momento hai capito che lui ti aveva teso una trappola e che ti saresti schiantato contro la terra che volevi salvare. Ma credi che ce ne siano tanti come te? Hai davvero pensato che altri fossero capaci di reggere prove del genere? Un miracolo, un Non si rifiuta mai a chi si ritrova solo con la sua libertà. Invece tu hai voluto dare l'esempio. Speravi che ti seguissero. Non lo sapevi che sarebbero andate dietro al primo ciarlatano, alla prima chiacchiera? Certo, certo, certo. Non si scende dalla croce per lasciare a bocca aperta chi ti ride dietro o in faccia. Troppo facile. Ma lo schiavo lecca la lama che gli porge il padrone con la lingua umida di paura e di riconoscenza e aspetta. Un colpo o una carezza non fa differenza. E tu sognavi la libertà? Qualche misera piccola rivolta e tutto quel che sognano loro? L'hai capito ora? Dopo tutto questo tempo? Ma guardati intorno, guardali. Con chi credevi di avere a che fare? Ti sembra possibile che seguano il tuo esempio? Ti sembra possibile? E allora perché hai rifiutato? Non hai avuto pietà? Hai preteso l'impossibile proprio da chi dicevi di amare più di te stesso? Se tu li avessi amati per quello che sono, non avresti agito così. Sai cosa si nasconde dietro i loro sogni di rivolta? Un orgoglio scolaresco. Sì, ragazzate. Nient'altro che ragazzate. Ma anche quelle le pagheranno care quando sarà il momento. Quando la terra sarà fradicia di sangue si renderanno conto che la rivolta è il fiato corto e così piangeranno tutte le loro stupide lacrime e daranno la colpa a qualcun altro. Diranno di essere stati ingannati, ma questo non li renderà felici. Si dispereranno e diranno frasi toccanti. Le frasi toccanti. Bisogna perdonarle. Sono inevitabili. Le frasi toccanti rendono sopportabile il dolore. Tutto quello che tu hai fatto per dargli la libertà non gli ha dato che infelicità. Ricordati, chi ama gli uomini ama anche la loro gioia. Pronto. Pronto. Sono tutti, direi tu, quelli che in nome della libertà hanno sopportato il deserto e la fame, hanno mangiato locuste e radici, sì, ma tutti gli altri, che colpo hanno se non sono riusciti ad accettare doni tanto tremendi? Miracolo, mistero, autorità, questo abbiamo insegnato. E loro ce ne sono stati grati, per sempre liberi dai tuoi doni. Noi li abbiamo fatti sentire amati per la loro impotenza. Gli abbiamo fatto scoprire la loro debolezza. Gli abbiamo dato il permesso e il piacere di piegarsi. E allora ascolta, lei non si ama con sé, si ama con lui. Ecco, il nostro segreto, e da tanto di quel tempo siamo con lui, e quando rifiutasti quello che lui ti ha chiesto il deserto. Deserto. Allora ci siamo incoronati padroni della terra. E se questo non è ancora realtà, di chi è la colpa? Certo, non siamo che all'inizio, ma un inizio è già qualcosa. La strada è lunga e bagnata di sangue, ma ce la faremo. E allora saranno tutti felici. Tutti. Tu hai avuto paura del potere. mandato agli uomini la pace. Noi l'abbiamo accettato e così abbiamo rifiutato te e ci siamo schierati con lui. Ci vorrà tempo per liberare il campo dall'equivoco della libertà. Arriveranno a divorarsi, ma alla fine ci leccheranno i piedi, ce li bagneranno con le loro lacrime. Allora noi innalzeremo la bandiera con la scritta mistero. Solo allora arriverà il tempo della pace e della felicità. Tu sei orgoglioso dei tuoi eretti, ma noi daremo la pace a tutti. Quanti dei tuoi eletti si sono stancati di aspettarti? Quanti hanno levato proprio contro di te la loro bandiera con la scritta libertà? Noi gli dimostreremo che solo rinunciare alla libertà rende liberi e loro ci crederanno. E noi avremmo mentito o detto la verità. E quando gli daremo il pane, vedranno che quello è il pane che hanno fatto loro, non frutto di un miracolo, non pietre trasformate in pane, ma saranno felici di riceverlo da noi. E sai perché? Perché si ricorderanno che prima di noi il pane gli si trasformava in pietre tra le mani. Noi gli daremo la felicità che si meritano. Una felicità tiepida, da deboli, come sono per natura. Gli dimostreremo che non valgono niente, li tratteremo con disciplina, come si trattano i bambini. E loro si abitueranno a cercare la nostra approvazione. Ogni volta che allungheranno la mano, avranno paura di sbagliare, si fideranno solo di noi. Naturalmente, gli daremo anche il permesso di peccare. Sono così fragili e impotenti. Ci vorranno bene come bambini per questo. Noi gli diremo che ogni peccato compiuto con il nostro permesso gli sarà perdonato e che la punizione per i loro peccati ce la accolleremo noi. Ci adoreranno e non ci terranno nascosto nulla. Noi gli permetteremo o gli proibiremo, in base al loro grado di docilità, di vivere con mogli e amanti, di avere o non avere figli, e loro ci affideranno tutti i segreti della loro anima. Saranno tutti felici. Tutti. Solo noi, i custodi del segreto, saremo infelici. Solo noi che ci saremo accollati il peso di dividere il bene dal male. Gli altri moriranno felici in nome tuo e oltre la morte non troveranno niente. Ma noi manterremo il segreto. Li colleremo nell'illusione di una ricompensa eterna. Tanto, anche se oltre la morte ci fosse qualcosa, non sarebbe certo per loro. E quando tornerai, perché si dice che tornerai, tu manderai avanti i tuoi eletti, ma noi gli diremo che non hanno saputo far altro che salvare se stessi, mentre noi avremo salvato tutti quanti. Allora io ti verrò davanti, ti indicherò tutte le creature incompiute che abbiamo salvato accollandoci i loro peccati e ti dirò: condannaci. Io non ho paura di te. Anch'io sono stato nel deserto. Anch'io ho sopportato il deserto e la fame. Anch'io ho mangiato locuste e radici. Anch'io ho creduto nella tua libertà. Anch'io mi sentivo un eletto. Ma io ho aperto gli occhi. Ho rifiutato l'orgoglio e scelto l'umiltà per la felicità di tutti. Domani vedrai come correranno a soffiare sul tuo rogo. Sei di traccio. Nessuno più di te merita questa fine. Domani ti farò bruciare. Non ci credi? Non ci credi? Certo, non si può credere per forza. Niente aiuta a credere, tantomeno le prove. Tommaso ha creduto non perché ha visto. Ha voluto credere, lo desiderava. Lo so, sono tutte chiacchiere. Ma un parassita deve pure intrattenere i suoi ospiti se non vuole farsi prendere a calci. D'altra parte, un calcio è già qualcosa. Una prova d'esistenza. Non si prendono a calci gli spettri. È che si finisce sempre per ripetere quel che già si sa. Si brucia in un lago di idiozia. L'unico sollievo è che a volte la vita sembra reale. Lavarsi, cedere alla superstizione, coltivare l'abitudine, chiacchierare, incarnarsi irrevocabilmente in una creatura incompiuta. Una qualunque. Più incompiuta è, meglio è. L'ideale sarebbe poter entrare in chiesa e accendere una candela ed essere tutto in quel gesto. Niente di umano mi è estraneo. Questo ti sorprende. Anche gli spettri hanno le loro carte da giocare, ma sbagliano sempre compagno di gioco. Il gelo del vuoto siderale non provoca che raffreddori. Hai provato a leccare una lama a 30 gradi sotto zero? Se provi a staccarla la lingua, sanguina. Col gelo siderale poi si rischia di strapparla alla radice, ma in quel vuoto ci sarà una lama. Ma chissà, se ci fosse magari girerebbe intorno alla Terra come un satellite. Mentire in maniera intelligente, questo è tutto. Purtroppo la verità non è mai intelligente. Si fa quel che si può. Il più delle volte si geme, oppure si balbetta, finché qualcosa per caso ci guarisce, o almeno così sembra. E si vorrebbe ringraziare. Sei giovane, l'intelligenza non è tutto. D'altra parte, senza critica non resta chi l'osanna. E il dubbio pare sia necessario per la libertà. Ma di questo non toccherà a me rispondere. Si vorrebbe farla finita, eh? E invece bisogna esercitarsi a indurire il cuore. D'altra parte, senza dolore si morirebbe di noia. Il peggio è che il dolore non basta mai. E nonostante tutto si finisce perfino per scordare il proprio nome. No. Entrare in chiesa e accendere una candela. Tu mi rimproveri la mancanza di fede. Lo so. Ma non sono il solo. C'era un tale, un uomo cattivo, dicono, che non credeva in nulla. Quando morì era certo di finire nel vuoto, e invece eccolo nell'aldilà. Rimase con un palmo di naso. Fu condannato a camminare nel buio per non so quanto, e poi sarebbe stato perdonato, ma lui no. Lui si stese di traverso e non volle fare neanche un passo per principio. Rimase così per qualche migliaio di anni, poi si alzò e si incamminò. Non so quanto ci abbia messo, ma alla fine è arrivato. Beh, non era passato un minuto e già gridava che per quel solo minuto lui avrebbe camminato anche due volte tanto. Che cattivo gusto. Meglio coltivare il dubbio, oscillare sul filo della lama a lungo e poi finire nel deserto a mangiare locuste. Nel deserto si crede di riuscire a perdere le proprie tracce. Ragazzate, anche quelle. Dietro un nobile scopo c'è solo un tentennio che dà il tormento. Sì, lo so. La notte sa di lauro e di limone e sembra di sentire l'alito del vento sulla faccia, ma l'aria è ferma. Tu tu non mi degni di una parola e io comincio ad annoiarmi. Certo, una caduta è inestimabile. Si può aspettare per anni, magari migliaia. Il rischio di rimanere con un palmo di naso c'è sempre. Sempre meglio che rimanere senza naso del tutto. Una volta ho sentito un tale che gridava: ridatemi il mio naso, ridatemi il mio naso. E un altro gli diceva: spesso una sventura può trasformarsi in un vantaggio. Infatti, se il destino ti ha portato via il naso, il vantaggio è che d'ora in poi nessuno potrà dirti che rimarrai con un palmo di naso. Ma che consolazione è questa? Che consolazione è questa? Ribatteva l'uomo. Preferirei che me lo dicessero ogni volta, ogni giorno che Dio manda sulla terra. E dice l'altro, non si può mica avere tutto. D'altra parte, se sei disposto a rimanere per tutta la vita con un palmo di naso, dovresti essere soddisfatto. Non è quello che ti è successo. L'uomo tornò a casa e si sparò. Potrei raccontartene altre di storielle del genere. Ma tu mi sono roba elevata e sublime. Oppure potrei apparirti tra tuoni e lampi, con l'ali di fuoco. Ma questo non ti farebbe nessun effetto. Sono volgare, lo so. Ci provo a fare quello serio. Ma alla fine viene fuori la mia natura. Modesta. Modesta. Eppure forse io amo la verità e desidero il bene più di tanti altri. Magari alla fine mi incamminerò anch'io nel buio e poi mi lascerò bruciare dal fuoco dell'istante. E questo mi darà la libertà, come è stato una volta. Vattene. Se anche fosse stato, io non me lo ricordo. Troppo tempo. Non tornare più. Lo spettacolo Domani ti farò bruciare, invettiva da I fratelli Karamazov, di Fyodor Dostoevskij, con Silvio Castiglioni, drammaturgia Andrea Nanni, produzione Celeste Rosa e I sacchi di sabbia, regia Giovanni Guerrieri, suoni Gianmaria Gamberini. Lo spettacolo Il sogno di una cosa, liberamente tratto dall'omonimo libro di Pierpaolo Pasolini, di e con Elio Germano e Teo Teardo. Da Ligugnana, da Rosa e da San Giovanni, che erano i loro paesi, senza ancora sapere l'uno dell'altro, Nini Infant, Nilio Bortolus ed Eligio Pereisson si erano mossi fin dalle prime ore del pomeriggio con le loro compagnie alla volta della festa. Il Nini giunse a Casale in bicicletta con il suo compagno di Ligugnana. Sul manubrio aveva piantato un ramo di biancospino e, dato che era già un po' ubriaco dalla mattina, non passava ragazza che gli non assalisse con grida pazze e galanti. Era in gran vena. Appena giunto a Casale, gettò la bicicletta col gesto di chi si sente uno dei protagonisti della festa. E non meno scalmanati di lui, da Rosa, frattanto, giungeva un'altra compagnia di ragazzi dai 15 ai 20 anni, con la giacchetta sulle spalle e le maglie dalle grandi strisce colorate intorno al petto. E tra essi, biondo, appena ondulato, con due occhi che parevano di cristallo azzurro, c'era Milio, che pedalava con la fisarmonica a tracolla. E non appena, come aveva fatto il Nini, la sua compagnia si fu liberata dalle biciclette e gli attaccò furiosamente un passo doppio tra le risa e i gridi dei compagni. E poi giunse anche il terzo, Eligio Pereisson. In piedi lui, sul carro, pieno di ragazze e di ragazzetti, era lui che guidava il cavallo bianco, che scuoteva la testa slittando in mezzo alla folla. E le ragazze intanto cantavano, agitando i fazzoletti e i ramoscelli di mandorlo che avevano strappato per la strada. Appena giunti sulla radura della sagra, le ragazze, spingendosi e gridando, sciamarono via in mezzo alla confusione. Giovani e anche di anziani, ora tutti ubriachi, se ne stavano intorno ai tavolini, in disordine, umidi di vino rovesciato. Tutti urlavano e schiamazzavano, rintronati dal vino. Il Nini, Eligio e Milio se ne stavano adesso tutti e tre insieme, intorno ad un tavolino, in compagnia di un altro gruppo di ragazzi di San Giovanni. La loro allegria era però un poco forzata, perché pareva che non riuscissero mai a liberarsi del tutto dal pensiero che in tasca non avevano più che 50 lire e che le altre 200 o 300 erano volate via durante la festa come il fumo. A un certo momento si avvicinò a loro un vecchio con un bicchiere in mano. Allora, gioventù, come andiamo? Siete ubriaco, andate a dormire. Ubriaco io? Guarda che io mi facevo i miei 2 fiaschi al giorno quando eri tu in pancia di tua mamma ancora, ricordati? Lo ricorderemo. E voi giovani minchioni che siete ancora qua, cosa state a fare qua in Italia? Voi potete girare il mondo intero che non trovate le porcherie che fanno qua in Italia? italiano, l'italiano è ladro, ladro, ecco, è il povero ancora peggio del ricco, no? Ecco, che è uno, basta che abbia due palanche in tasca e va subito a fare il porco, ecco, si dimentica di tutti i suoi compagni. Compagni, queste sono le ultime baracche. Qua o morire di fame o andarsene. Ma ti sono arrivate le carte? No, ancora. Però dai, 3-4 giorni forse arrivano. Anch'io forse andrò via. Sì, ma come? Dove? E dove? Jugoslavia. Là almeno c'è il comunismo. Tu, da solo? No, non io da solo. Ligugnana siamo in 5 o 6 che abbiamo questa idea. E ci sarebbe pure qualcun altro. Però è ancora tutto da decidere. In Jugoslavia. Il 14 luglio 1948. Il Nini ed Eligio, con Antonio e Pietro Nonis, con Basilio e Germano Giacomuzzi, partirono da Ligugnana per andare in Jugoslavia. Anche l'ultimo bicchiere di bianco insieme. Milio aveva portato la fisarmonica, per cui si salutarono cantando e gridando e piangendo anche. Ma quelli erano i giorni della speranza. La guerra pareva ormai lontana e per la gioventù cominciava la vita. Verso le 4 del pomeriggio arrivarono a Gorizia e per passare il tempo vollero salire sul castello. Dallassù si poteva vedere, lungo una distesa verde e azzurra di alture e montagne, il confine con la Jugoslavia. E la Jugoslavia stessa, come addormentata nel sole. Là non c'era più Italia. Là pareva che non ci fosse proprio più mondo, o che avesse inizio un mondo del tutto nuovo, libero, luminoso. Il giorno dopo, la mattina presto, giunsero a Cividale e, lasciati i bagagli in un'osteria, andarono in giro per la città in cerca di quest'uomo di cui a Gorizia gli aveva parlato il fratello di Germano. Ma invece dell'uomo trovarono subito i carabinieri e furono anche fortunati ad andare in giro senza bagagli. Passarono in caserma buona parte della mattina e del pomeriggio. E quando verso le 5 li rilasciarono, ripresero subito le ricerche. Ma già tacevano tutti. Non se lo dicevano, ma erano stanchi e avviliti. Poi trovarono finalmente, proprio nell'osteria dove avevano lasciato i bagagli, mezzo ubriaco davanti al suo litro di vino nero, quest'uomo, che dopo un po' di chiacchiere si offrì di guidarli oltre il confine. Erano ormai le 11 di sera e gli disse, portandoli fuori nel cortile, che andassero avanti ad aspettarlo in una certa località poco oltre il paese, ai piedi della montagna. Pioveva. E si andarono lì e attesero per un bel pezzo sotto la pioggia, sul crinale tra le piante. E infine, proprio quando ormai non lo aspettavano più, ecco dalla montagna arrivare l'uomo. Sono 6 o 7 ore di cammino. E cominciarono a camminare, con i loro fagotti pesanti, dirigendosi verso l'interno del collio. L'uomo era ubriaco e camminarono così per tutta la notte, e la marcia era molto difficile perché non ci si vedeva a 2 passi di distanza. Il sentiero era pieno di pietre, i rami degli alberi sbattevano contro il viso e pioveva forte. Poi verso l'alba lo sloveno disse: ecco ragazzi, questo è il confine. Per il suo lavoro volle 6.000 lire e se ne tornò indietro. E si ripresero a camminare verso il luogo che gli aveva indicato. Ma non trovavano nulla. Camminarono ancora per altre 4 ore e il confine non si vedeva. Era già mattina e pioveva ancora. Fradici e morti di sonno, si fermarono a mangiare un pezzo di pane seduti sulle rocce. E dopo un po' ripresero la marcia, ma niente era cambiato intorno, sempre il solito bosco. Poi ad un tratto stavano camminando per una vallata, era ormai quasi giorno fatto, quando videro a 200 o 300 metri di distanza la bandiera italiana e sotto una sentinella. Si gettarono subito a terra. Restarono per un po' di tempo fermi così tra i cespugli. Poi strisciarono tra gli alberi del bosco, che era abbastanza fitto, inerpicandosi su per la china, e quando furono fuori dalla visuale della sentinella si misero a correre, stando gobbi, cercando di mantenersi sempre al riparo dei rami. E fu così, senza saperlo, che passarono correndo quella fila di paletti bianchi che era il confine. Camminarono ancora in fretta per una 20ina di minuti, poi in mezzo ad una radura trovarono un uomo, forse un boscaiolo, e a lui chiesero se erano in Italia o in Jugoslavia. Egli li guardò senza dire nulla e poco dopo si allontanò dietro la boscaglia era andato a chiamare gli slavi. Dopo nemmeno un quarto d'ora il boscaiolo ricomparve con un soldato slavo, armato di mitra. Furono presi e condotti a un chilometro da lì, al comando, dove ebbero un interrogatorio. Perché siete espatriati clandestinamente? Per lavorare in Jugoslavia. Per lavorare. Per lavorare in Jugoslavia. Così risposero, pronti, i ragazzi, che avevano anche all'occhiello il distintivo comunista e ne erano orgogliosi. Non dubitavano, infatti, che gli slavi avrebbero pensato subito a farli dormire, a farli mangiare. E invece gli fu dato l'ordine di partire sotto la guida di due militari armati e dovettero farsi altri 18 chilometri di strada, digiuni e fradici come erano. Fecero girare per più di un'ora attraverso il paese e li condussero in una prigione. Alla mattina dopo gli diedero un po' di caffè e latte e li fecero ripartire con l'ordine di andare a Santa Lucia di Tolmino. Giunti a Santa Lucia, dopo un'altra camminata di altri 15 chilometri, furono fatti nuovamente ripartire, questa volta almeno in treno, e arrivarono a Verpoile. Lì, in una casa tutta scrostata e bucata da pallottole di mitragliatrici, trovarono un'altra guardia slava che, bestemmiando e sudando, li prese e li condusse un po' fuori dal paese, in questo edificio grande e disadorno come un'officina, che era la casa dei clandestini. Girare di nuovo per la città, bruciata dal sole, in cerca di qualcosa da mangiare. Ed entrarono in diverse botteghe, ma senza la tessera. Non c'era nulla, neanche a morire. E ormai non ne potevano più dal caldo e dalla fame. Così si decisero a comprare a un prezzo altissimo un vaso di marmellata, l'unico genere che era fuori dalla tessera, e con quello sotto il braccio se ne andarono nella loro stanza. Dopo mezzo minuto il vaso era tutto pulito e col dolce della marmellata dentro quello stomaco vuoto si distesero a letto. Stavano tutti zitti. Fu Basilio ad un tratto che ruppe il silenzio. Ragazzi, io torno a casa. Qui si patisce troppo la fame. E i compagni, ma cosa avete? Le palle piene abbiamo. Capito, ma cosa volete fare? Andarcene. Io non ce la faccio. Non voglio rimanere neanche più un giorno qui. Io non voglio morire di fame. Sperate che domani ci daranno le tessere. Volendo proprio illuderci, ce le daranno forse fra 3-4 giorni. E intanto che cosa faremo? Vivremo di marmellata? E i soldi? Almeno a casa un piatto di fagioli e una polenta erano sicuri, anche se non si lavorava. Noi ne abbiamo passati di brutti momenti a casa, ma una fame così non ce la siamo mai sognata. Io per conto mio me ne vado, compagno. Se ne andiamo io e te, Ligio. Aspetta, resistiamo ancora un po'. Aspettiamo 3-4 giorni che ci diano le tessere. Ma restaci tu, restaci. È ormai un mese e mezzo che andiamo avanti così, è andata sempre peggio. Al confine? Come la passi? Sentiamo. Sperate che ci vada bene un'altra volta. E poi, finché ci prendevano gli italiani, era un conto. Lì eravamo in famiglia. Ma se ci prendono questi figli di cani, avete idea di cosa potrebbe succederci? Ti ammazzano. Il comunismo sarà anche bello. Io questa idea ce l'avrò fino alla morte. Ma questi figli di cani! Dite quel che volete, io rischio anche la foiba. Ma la morte di fame è la morte più brutta che ci sia. E poi in ogni caso ti prendi una fucilata mentre passi il confine? E amen. Arrivare è stato facile, ma tornare? Mi pare un secolo che non vedo l'Italia. Lontana. È lontana. Casa nostra questa. Non ci posso credere. Ragazzi, andiamo a berci un bicchiere, dai. Sì, ma anche due. Andiamo. Plan, fantasma, plan. Non è ancora detta che ce l'abbiamo fatta. Entrarono subito in un'osteria. Ma appena dentro, videro venire verso di loro un pattuglione di poliziotti. E non poterono né tornare sui loro passi e gettarsi nei campi oltre il fosso né niente. furono fermati subito anche in Italia e portati al comando anche qui, da dove passarono alla prigione. E restarono così nella prigione di Gorizia per un bel pezzo. Sarebbero tornati a casa loro solo alla fine di settembre. Settembre 1948. Pieno di gente, tutti pronti alla lotta. Non si era mai vista tanta gioventù tutta insieme. Era come se 3 o 4 anni prima fossero venuti giù dai monti tutti i partigiani. Erano tutti in piazza, tutti intorno al palazzetto dei conti Spilimbergo. Non c'era nessuno in casa. Quelli abitavano quasi sempre a Roma. In 448 i dimostranti buttarono giù il cancello ed entrarono nella villa. Villa che era una reggia. I Nini, Milio, Eligio e Iacu, che erano i più piccoli, andarono subito a sedersi su quelle poltrone di velluto. Poi, soddisfatti, entrarono nelle cantine. Capirai, giù vino, salsicce. Tanti si portarono via sacchi di zucchero, sacchi di farina, che le loro vecchie madri di Lignana o di Rosa li benedissero. Ma ecco che sul più bello arrivarono da Pordenone dei reparti di polizia con un'auto blinda. I giovani delle avanguardie dentro la villa, da assediatori che erano, divennero assediati. Ma quel giorno non c'era niente da fare con la forza del popolo. Quando l'auto blinda buttò giù il muretto di cinta ed entrò nel giardino con sopra i poliziotti con le armi puntate, ecco che prima una donna, poi 2, poi 3, poi 100 andarono a distendersi per terra, sul fango, sotto la pioggia che cadeva fitta, e stettero lì, distese, e chi poteva muoverle? Giù, a terra! Sì, a terra! Sì, sì, a terra! Tutte giù! Sì. Provate a passare ora, figli di cani! I poliziotti così, un po' alla volta, dovettero tornare da dove erano venuti. E verso sera arrivò anche la telefonata dell'amministratore degli Spilimbergo, che accettava le condizioni dei dimostranti. Già gran parte della folla si era rovesciata fuori dal giardino, sulla piazza, riempiendola di clamori, di grida, di canti. Tutti si chiamavano, si salutavano allegramente. Dai ragazzi, che domani tocca San Giovanni, eh? Oh, domani li facciamo vedere noi. A domani. Anche dalla villa dei Malacart si sentivano delle grida, dei fischi, la cui eco giungeva confusa a tratti. Erano gli operai, come il giorno prima a Gruaro. Anche lì stavano occupando la casa. E anche lì il cancello della villa, sul giardino spoglio, era chiuso. E in fondo si vedeva la casa, che pareva disabitata. Gli operai così cominciarono a picchiare sul cancello, a gettare pietra nel giardino, oltre il muro. E alcune pietre arrivarono fin contro la facciata della casa, contro la porta, contro le finestre. Ma tutto nella casa restava chiuso, silenzioso. I dimostranti dalla strada gridavano, fischiavano. Dopo qualche tempo cominciarono a picchiare più forte sulla serratura del cancello, con una spranga. E a quei colpi, più violenti e decisi degli altri, un'imposta della casa si socchiuse e apparve la testa di un uomo, coi capelli rossi e la pelle quasi dello stesso colore. Cosa volete? Vogliamo parlare? Sì, vogliamo. Parlare? E di che cosa? Aprite! Aprite! Aprite quel cancello! Gli altri così ripresero a scardinare il cancello. Ma poco dopo Malacarta apparve sulla porta, stavolta con una doppietta in mano. Sentiamo, cosa avete da dire? Ma venga uno solo! Se viene più di uno, gli sparo! I dimostranti discussero per qualche minuto tra loro su chi doveva andare. Si decisero per Pieri Susanna, che si diresse verso la porta ed entrò. E rimase dentro più di mezz'ora. Quando uscì in giardino, rideva venendo avanti con le mani in tasca. Rideva. Niente. Ma la carta non voleva nessun accordo. I dimostranti allora, dopo qualche discussione, si decisero a forzare il cancello e a fare qualche passo dentro il giardino. Guardate che sparo! A quella minaccia si spandarono tutti di qua e di là, tornarono dietro il muretto e ricominciarono a tirare sassate a caso contro la villa. Noi siamo forti, siamo più forti di lui! Dai! Ci penso io, sacramento! Prima che Pieri Susanna, che l'aveva seguito, potesse impedirglielo, Iacu tirò fuori dalla tasca della giacca una pistola e sparò un colpo verso la finestra. E dopo un istante la doppietta gli rispose. Ma cosa fai? Metti via quella pistola, imbecille! Se lo merita quel cane, però, eh? Eh sì, lo meritano tutti, però poi ce li mettiamo noi! Vado io avanti! Voglio vedere se ho coraggio di spararmi! Oh, sentilo questo qua, canaia, torna indietro! Che non voglio sentirle da tuo padre! No, mio padre non ti dirà niente! Non mi dirà niente perché tu da qui non ti muovi, hai capito? Su, lasciatemi entrare! No. Andiamo noi con lui! Bravo, a Gruaro le donne! Oggi noi sbarbatelli! No! E che già un altro sparo. Però Malacarte doveva avere mirato in aria solo per fargli paura. Padrone! Padrone, stia attento a quello che fa! Sono ragazzi! E i ragazzi un po' alla volta stavano invadendo tutto il giardino. Ormai i primi erano arrivati fin sotto la porta. Quando dalla strada arrivò correndo uno di quelli che erano andati a San Floreano, dalla parte di Gruaro, e gridò che dal viale stava arrivando la polizia. In fondo alla strada di Borgo Braida si vedeva avanzare ormai l'autoblinda, la stessa del giorno prima, seguita da 3 o 4 camion carichi di agenti. si era fermata. E lentamente, tenendo strette in mano le armi, gli uomini saltavano giù dai camion sul fango della strada. I poliziotti li minacciarono, scuotendo gli sfollagente. Ma la folla alzò le roncole, i bastoni, i pugni. Gli agenti, vedendo tanta folla accalcarsi da tutte le parti e stringere in mezzo l'autoblinda, allarmati, cominciarono a colpire. E in mezzo alla strada non c'era, dopo pochi minuti, che un groviglio di corpi, stretti in una lotta confusa. Gli operai erano 3 o 4 centinaia, ma anche gli agenti erano molti. La lotta era più accanita davanti al cancello di Malacarte. Da lì si propagava da tutte le parti, con gli anziani che però cominciavano già a disunirsi, limitandosi a scansare i poliziotti quando questi gli andavano addosso e li prendevano a spinte, mentre i ragazzi continuavano a stare sotto l'autoblinda, a lottare anche in disordine e a gruppi contro gli agenti, inframmezzando le botte con discussioni, con insulti. Ma ad un tratto, giù dal viale della Rimembranza, da Casarsa, si videro arrivare e fermarsi proprio all'angolo della piazza 4 o 5 camion dell'esercito, pieni di soldati. Andiamo, andiamo! Via, via di qua! Via! Via, no! Non tutti da una parte, via! Via! E allora, improvvisamente, la ritirata si tramutò in una fuga. I ragazzi, vedendosi ormai soli alle prese con gli agenti e coi soldati che, scesi dai camion, si preparavano a farsi sotto, cominciarono a scappare via di corsa verso San Floreano, verso Borgo Romanzo. Tagliavano la corda proprio come quando, solo un anno o due prima, erano scoperti dai padroni a rubare le pesche o l'uva in qualche campo. In pochi mesi erano cambiate tante cose. Prima di tutto, il Nini aveva trovato lavoro alla Mangiarotti, lavorava al deposito di esplosivi e si era anche un po' trasformato. Un giovanotto progredito lo era sempre stato, ma adesso lo era ancora di più. Pareva proprio uno di città, vestito come si deve, sempre allegro e con aria superiore. Eligio invece, in quegli ultimi tempi, era dimagrito sempre di più, era tutto pelle e ossa. colpa della tempesta che era venuta quell'estate e che aveva rovinato tutto il raccolto, quei due campetti coltivati a grano turco e viti, su cui vivevano tutti i Pereisson, che erano stati mezzi distrutti dalla grandine. E la famiglia non sapeva proprio più come tirare avanti. Debiti, miseria. E così Eligio era andato a lavorare, anche lui, in una cava, verso Cordovado. Ma questa cava gli succhiava il sangue e l'anima. Il Nini era come una bottiglia piena che volesse rovesciare in una volta tutto il vino e invece ne versa poco poco perché ha il collo stretto. Sale da ballo, orchestrine, cantanti, figurarsi, queste erano cose che erano come una luce dentro di lui, quella luce che lo aveva sempre fatto diverso dagli altri. Era sempre stato a quel modo il Nini. Era un cittadino, ecco, non un contadino. Era proprio come Pia. E così cominciò a parlarle proprio di tutte quelle cose lì. Coi gomiti sul bancone e il boccolo nero sulla fronte. Sale da ballo, orchestrine, cantanti, e Pia lo guardava con gli occhi aperti, stellati, un po' umidi, su quella pelle asciutta, che pareva quella di un paggio, di un angelo. Oh, lavora? Sì, alla Mangiarotti, alla polveriera. Oh, pericoloso. Ma sì, ma che mi importa? Alla fine si vive una volta sola, no? D'altronde, se voglio il pane, devo pur lavorare. Beh, certo, è vero. Thank you. ne andava spesso a Gruaro, o per qualche compera, oppure dal parrucchiere a farsi la permanente, e ci andava in bicicletta. Così il Nini spesso la aspettava dopo il lavoro e ritornava a San Floriano insieme a lei. Il loro amore, che tanto sincero in principio non era, a dire la verità, si era andato facendo sempre più forte. Ma il Nini non ci pensava ancora su, era convinto di andare con Pia soltanto per divertirsi, e invece Pia, per quel che riguardava il divertirsi, più di tanto non faceva, e pareva che non avesse proprio nessuna intenzione di cedere, perché era onesta, era una brava ragazza. Le sue speranze erano il fidanzamento, il matrimonio. E neanche per calcolo, poi, dato che il Nini, con tutte le sue arie di cittadino, non era che un povero operaio della Mangiarotti. Ma quando lui tentava qualcosa, lei si difendeva, più triste e addolorata che offesa. Poi una sera, mentre tornavano come altre volte in bicicletta da Gruaro, il Nini non ce la faceva più dal desiderio di fare l'amore con lei e pedalava, silenzioso, senza parlare. Dopo Rosa, la strada verso San Floriano era piena di curve, tutta deserta, e a una delle curve della strada c'era un ponticello con un lavatoio. Ed era lì, di solito, che si fermavano a baciarsi nel buio della sera. E il Nini si fermò come le altre volte. Prese quasi di peso Pia dalla sua bicicletta, ma stavolta, anziché poggiarla contro il muretto del ponte, la sospinse giù, per il viottolo, lungo l'acqua, verso il lavatoio. E Pia lo lasciò fare. Capiva che quella sera era la sera che prima o poi doveva venire. Il Nini la distese su un po' d'erba secca e umida e la coprì con tutto il suo corpo. E dopo che ebbe fatto, per l'imbarazzo non sapeva più dove tenere quelle sue mani, ruvide, abituate ad adoperare gli arnesi dei lavori pesanti, accarezzare donne ben diverse da Pia. Il Nini pensò con spavento a quello che lei avrebbe potuto dire o fare. Ma Pia invece non disse e non fece nulla. Pareva solo rattristata, stupita, con una profonda espressione di vittima in fondo ai suoi occhi neri. E intorno c'era tutto silenzio. Si sentivano solo svolazzare o cinguettare quegli uccelletti piccoli piccoli che restano nelle campagne durante l'inverno. Tutti lo capirono subito. Cristo era morto, con altri 3 suoi compagni di lavoro. Gli altri, tra cui il Nini, si erano salvati. Non era Eligio, quel ragazzo, disteso nel lettino della corsia, con la faccia consumata, i capelli lunghi e le spalle che sporgevano dal lenzuolo parevano quelli di un bambino di 13 anni. Più ancora che bianca la pelle, era di un colore senza nome, quello dei visceri che non hanno mai visto la luce. Le ossa del viso sporgevano, allungandolo dagli zigomi al mento. Ed era forse questo che aveva sfigurato Eligio fino a non farlo più riconoscere. Ma erano gli occhi, soprattutto, che non avevano più nulla di cosciente. Ora teneva le braccia abbandonate lungo i fianchi di quel corpo di bambino sulle coperte. E ora le alzava nel delirio, le agitava, scuotendo la testa su e giù. Ora colpiva angosciosamente col pugno chiuso la parete contro cui era appoggiato il lettino di ferro. Era questo gesto di spasimo che egli, con incosciente ostinazione, ripeteva più spesso. Guardava un momento negli occhi quelli che gli erano intorno, poi girava la testa dall'altra parte e ricominciava a colpire la parete col pugno. Corsia, sotto le lampade accese, i malati cercavano di dormire. Erano tutti poveri. Sulle loro facce, screpolate e spente, più che la malattia, era stampata la tristezza della miseria. Una vita passata sul campo, su un letto di cartocci, sul tavolo unto di un'osteria, o presso un focolare condiviso con parenti nemici. Ora erano stati portati lì, distesi su quei letti e lasciati a giacere col loro male. Eligio, Eligio, guarda chi che le vignò a trovarti. Ah, era tante, stava male. Sì, lo sapevo. Ma perché non si curava? Era andato dal medico una volta, ma non gli aveva trovato niente. E così continuava ad andare alla cava. Io lo vedevo dimagrire di giorno in giorno, sempre di più, fino a diventare quasi uno scheletro. E allora gli dicevo: non sta andare alla cava, Eligio, non sta andare alla cava. E lui rideva, finché un giorno si è sentito male e me l'hanno portato a casa i compagni.

con Michele Lotti, uno dei curatori dell'ottava edizione di Videocittà, Festival della Visione della Cultura Digitale, a Roma, complesso ENI del Gazzometro Ostiense, dal 3 al 6 luglio 2025. Ben trovato! Ciao, ciao a tutti! Cos'è questo festival? Il festival nasce ormai appunto 8 anni fa, questa sarà l'ottava edizione, la quarta all'interno del Grande Gasometro. Il festival nasce dalla volontà di Francesco Rutelli, da una sua intuizione, di voler organizzare un appuntamento e creare intorno alla comunità dell'audiovisivo, quindi in tutte le sue forme, una manifestazione di interesse. Quindi noi parliamo di grandi installazioni monumentali, di videoarte, audiovisual show, ma invitiamo anche tantissimi content creator, quindi parliamo veramente dell'audiovisivo in tutte le sue sfaccettature. Com'è strutturato il festival? Appunto, da 4 anni siamo all'interno del sito archeologico più grande d'Europa, quello del Gasometro, e all'interno allestiamo ogni anno un grande villaggio con 6 stage, quindi un programma ricchissimo che va dalle 18.30 alle 2 di notte, e dove la parte principale, il cuore pulsante di tutta la programmazione, è la grande installazione, perché noi diamo la possibilità al pubblico di entrare dentro il grande cilindro per fare un'esperienza immersiva di 15 minuti e quello rappresenta il cuore pulsante. Poi il resto del villaggio è pieno di altre attività, exhibition, abbiamo tantissimi talk, la videoarte, e quindi le persone possono vivere insomma un'esperienza veramente innovativa, concentrata sulle nuove esperienze virtuali e digitali. Quanti sono gli artisti e le artiste presenti? L'installazione quest'anno la farà un artista romano ma di fama internazionale, Quagliola, che sta progettando insieme a noi questa installazione specific del nome Solar, quindi dedicheremo al sole come elemento di energia e trasformazione. L'installazione prevederà un allestimento di più di 200 punti luce in verticale sul grande cilindro, quindi sarà veramente visibile da tutta Roma. Già in questi giorni potrete iniziare a vedere dei raggi di luce notturni che navigano per i cieli di Roma, e il tutto sarà diretto da un direttore d'orchestra d'eccezione e il suo robot customizzato Cuca. Questo per quanto riguarda la grande installazione. Sul main stage invece noi giochiamo molto sulla contaminazione tra musica e arte digitale. Avremo uno dei più grandi artisti della musica elettronica inglese, Caribou. Abbiamo invece anche tanti artisti italiani, abbiamo Ok Giorgio, abbiamo Luzzai, abbiamo una programmazione di giovani artisti internazionali anche con collaborazioni che portiamo avanti, come ad esempio il Mutec di Montreal. Com'è stata la scelta artistica? Parte da una squadra curatoriale ormai ben consolidata, lavoriamo insieme da tanti anni e cerchiamo ogni anno veramente di portare chi ha questa energia, questa voglia di sperimentare con tutto ciò che sono le nuove tecnologie, quindi artisti che sperimentano ad esempio con la VR, con XR Experience, con la realtà virtuale, con tutto quello che è l'innovazione. Tutti gli artisti che hanno questa voglia, questa energia di voler sperimentare nell'arte digitale sono accolti da noi, e tantissimi lo fanno anche insieme a noi. Quest'anno avremo anche Victoria De Angelis dei Maneskin, che ha il suo nuovo progetto da DJ e ha chiesto a Videocittà di curare tutta la parte visiva. Quindi c'è proprio un lavoro anche a 4 mani che facciamo con gli artisti per portarli a sperimentare su queste innovazioni digitali. I riferimenti web? Il nostro sito, dove potete trovare anche ovviamente i biglietti per accedere al festival con le varie formule, il daily ticket e i vari abbonamenti, e poi anche la nostra pagina Instagram. 8ª edizione di Videocittà, Festival della Visione della Cultura Digitale a Roma, complesso ENI del Gazzometro Ostiense, dal 3 al 6 luglio 2025. Un saluto e un ringraziamento ad uno dei curatori, Michele Lotti. Alla prossima! Grazie, a presto! È il momento dell'agenda per gli appuntamenti teatrali della settimana con Simone Nebbia di Teatro e Critica. Ed eccoci ancora, ciao a tutte e tutti, e andiamo a vedere un po' qual è il teatro di questa settimana. E si comincia dal nostro vecchio amico Teatro Tor Bella Monaca, che presenta il suo teatro festival e per questa settimana già propone insomma degli spettacoli all'interno insomma dell'estate romana. Dunque, già questa sera si comincia con Elena Bonelli e il suo La Voce di Roma tra sacro e romano. Insomma, Elena Bonelli da tanti anni fa attività attorno alla romanità, alle radici della musica e del teatro di questa città, quindi insomma nella tradizione musicale di Roma e della regione, questo viaggio che intreccia la musica e la sacralità anche, perché insomma si va anche a celebrare il rapporto con la musica sacra di San Filippo Neri, il Cantico di San Francesco e via. Invece 2-3 luglio per questa anteprima nazionale di Roberto Zorzut, che presenta questo doppio appuntamento, ecco, con la commedia brillante L'arbitrato e La risoluzione della contesa, entrambi testi dell'autore greco Menandro, che insomma tratta il tema della condizione della donna nella Grecia del suo tempo, quindi molto attuale come ragionamento. Invece 3-4 luglio Emilia Agnesa e Giuliano Dulé presentano Postremos, ispirato al Calapranzi di Harold Pinter. Siamo in una stanza chiusa, ci sono due donne che attendono istruzioni, Simone e Rosa. Sono assassine, forse agenti segreti, non scelgono mai le loro vittime e sono lì e eseguono semplicemente degli ordini. Questo è quello che insomma inizia così anche il Calapranzi. Vediamo come verrà trasformato da Emilia Agnese e Giuliano Dulé. Venerdì invece continuiamo con Venerdì 4, Edoardo Prati, con lo spettacolo Com'è profondo il mare, i versi evocativi della letteratura. Insomma, Edoardo Prati riscopre il potere del narrare storie attorno appunto al mare. Anche qui andiamo nella Grecia antica con i poemi omerici. E invece sabato 5 luglio ancora siamo nell'ambito omerico, perché andiamo a vedere Ulisse e il suo viaggio senza fine con Roberto Ciufoli. Ulisse, la Troia ad Itaca ci ha messo tanto, quindi spettacolo comico perché conosciamo Roberto Ciufoli. Molto bene, in arrivo a Roma da oggi e per tutto il mese di luglio fino al 26 anche la Pirandelliana 2025. Tre commedie a giro durante ogni settimana, insomma, al Giardino della Basilica dei Santi Bonifacio e Alessio all'Aventino, se non vado errato proprio il Giardino degli Aranci, che è quello insomma che sta sopra a Via L'Aventino. Verranno presentate le figure femminili delle tre commedie Tutto per bene, Il gioco delle parti e Il berretto a sonagli. Insomma, andremo a vedere un po' Marcello Amici, che cura la regia di tutte e tre le opere pirandelliane, come ce le presenta per tutto il mese di luglio a partire da questa sera. Ma noi andiamo anche fuori programma, proprio perché si chiama fuori programma la rassegna, lo sappiamo, Festival Internazionale di Danza Contemporanea curato da Spellbound, sempre all'interno della stagione di Orbita, e siamo alla 10ª edizione e cominciamo il 2 luglio al Teatro India, ma ci sono vari appuntamenti in vari luoghi. Sempre Valentina Marini, che insomma alla 10ª edizione continua la sua direzione artistica. Andiamo a vedere un po' più nel dettaglio, ma tanti sono i progetti particolari e interessanti, anche due progetti speciali che però tratteremo magari settimana successiva. Si comincia domani con Guy Nader e Maria Campos con Time Takes the Time, Time Takes. È un gioco di parole, probabilmente. L'Arena del Teatro India ospiterà questa coreografia. Seguirà Human di Biagio Caravano, sempre il 2 di luglio. Mentre invece 3 luglio, con ben tre spettacoli, Sao Ching Wang, Carles Castagno Oliveros con Cruid in prima italiana, sempre al Teatro India, Brother to Brother dall'Etna al Fuji, site specific version, l'anteprima della compagnia Zappalà Danze Munedaico, e anche il ritorno a Roma di Gruppo Nanu con Red Room. E il 4 continua sempre in replica alcuni di questi spettacoli, ma segnalo anche Francesco Marilungo Corper con Stuporosa. Il 5 vedremo La Veronal, Marcos Morau con Totten Tanz, Morgan East di Frage. Il 6 luglio anche Ona Doherty. E vedremo anche Andrea Costanzo Martini con Life in Lycra, l'anteprima sempre negli spazi del Teatro India. Quindi sul sito di Fuori Programma io direi andiamo a vedere un po' più nel dettaglio il programma, pienissimo di cose, vedo solo qui, vedo delle immagini, già solo le immagini sono meravigliose, assolutamente da non perdere questo appuntamento. Quindi Fuori Programma tutta la settimana al Teatro India, con le firme internazionali della coreografia. Altri due appuntamenti che segnalo saranno il Roma Borgata Festival dal 2 al 6 luglio tra Monte Spaccato, Torre Vecchia e Prima Valle, questo festival diffuso delle borgate e delle periferie romane, con teatro lirico, circo, realtà virtuale nei luoghi non convenzionali. Ci saranno insomma l'opera, il Rigoletto, gli operai all'opera, Elio Germano, ci sono vari appuntamenti interessanti. Rio Germano, quella realtà virtuale presso il polo culturale dell'ex fabbrica Campari, presenta La mia battaglia in VR, che è, io ho visto, diciamo, invece in versione molto interessante, ho visto in versione teatrale, molto interessante il progetto, un esperimento teatrale immersivo tra parole e tecnologia, sarà il 2 e il 3 di luglio, poi sempre domani Piazza Cornelia, Matteo Cirillo darà voce a Edicole, ce l'ho mi manca, per trasformare l'edicola in un luogo che racconta storie, il Bar Campioni con la regia di Fabio Morgan, e insomma vari appuntamenti, ecco, gli altri dedicati all'opera, il 4 luglio a Torre Vecchia, questo Rigoletto un po' particolare con gli operai dell'opera, insomma romaborgatafestival.it per il programma più preciso, e vi assicuro, insomma, un appuntamento da non perdere. Mentre invece comincia anche l'Ostia Antica Festival al Teatro Romano di Ostia Antica, curato dal Teatro di Roma, e l'appuntamento con cui si comincia dal 2 al 6 luglio è questo Edipo Re di Sofocle, con la regia di Luca De Fusco, che è anche il direttore del Teatro di Roma, quindi non ci perdiamo nessuna opportunità di andare anche a fare le proprie regie. E i protagonisti scena Luca Lazzarischi e Monella Mandracchia, che sono due fra i più grandi attori italiani. Questo viaggio in chiave thriller tra mito e destino nel cuore del grande capolavoro di Sofocle lo andremo a vedere quindi dal 2 al 6 di luglio al Teatro Romano di Ostia Antica. E direi che, insomma, con questo abbiamo concluso, e rimando poi alla prossima settimana, ma per questa io auguro buon teatro a tutte e tutti. Questa è tutta Scena Teatro su Radio Onda Rossa. Il martedì alle ore 14. Trasmissione settimanale dedicata al teatro e agli eventi culturali. I podcast di spettacoli e interviste sono disponibili sul sito internet ondarossa.info alla voce trasmissioni. L'indirizzo di posta elettronica è visionari@ondarossa.info.